Amorosamente noi diventiamo solo noi quando occorre veramente essere noi, noi non facciamo facciarci tutti i torti, anche a costo di far male, siamo noi, noi, amore noi, siamo nati per amare. Che pur senza difese riusciremo a disegnare il gran sogno che avevamo, non dimenticarlo. Mente noi siamo gli unici a cambiare senza le banalità, siamo noi, noi non facciamo confrontarci su ogni cosa, conoscendo il nostro amore, pure nelle avversità. Noi, amore noi, ora è tempo di scoprire che ci è stato dato, quello che ci è stato tolto, senza false ipocrisie, siamo noi, noi, amore noi, noi vogliamo solamente essere.